Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. L'Eurogruppo ha ricevuto la lettera del ministro greco Varoufakis con le 6 riforme proposte dal governo ellenico, ma anche se verranno illustrate all'Eurogruppo lunedì non si accelera il processo per l'esborso degli aiuti. Secondo fonti europee, negoziato tecnico che porterà allo sblocco della tranche di aiuti ancora in alto mare. Intanto già a febbraio il governo greco non è stato in grado di pagare tutti i dipendenti pubblici. Per la prima volta gli insegnanti di sostegno, per esempio, non avrebbero percepito lo stipendio. Anche per questo il premier ellenico Tsipras avrebbe cercato un incontro urgente con il presidente della Commissione Juncker per ottenere un anticipo dell'ultima tranche del programma di aiuti. Nel quarto trimestre del 2014 il PIL dell'Eurozona cresce dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, quello dell'Unione Europea 28 è aumentato dello 0,4%. L'ho confermato oggi Eurostat. Nello stesso periodo l'Italia ha registrato crescita zero. A Riga è in programma il Consiglio informale dei ministri degli affari esteri. Su pressione anche dell'Italia, la situazione in Libia è diventata ormai un tema di preoccupazione per i 28. I ministri degli esteri dell'Unione Europea, riuniti oggi a Riga, ascolteranno nel pomeriggio l'analisi di Bernardino León, l'inviato delle Nazioni Unite nel paese teatro di una gravissima guerra civile. L'obiettivo della comunità internazionale è di aiutare la formazione di un governo d'unità nazionale. Il ministro degli esteri tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha ammesso stamani che la situazione nel paese è complessa e pericolosa per l'Europa. La minaccia non è rappresentata solo dall'arrivo di nuovi migranti sulle coste europee del Mediterraneo. C'è il timore che la Libia diventi la culla di nuovi terroristi islamici pronti a fare attentati in Europa. L'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, ha promesso misure concrete anche in vista del prossimo Consiglio europeo previsto a fine mese, quando la crisi libica sarà trattata direttamente dai capi di Stato e di Governo. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Riga. E pochi secondi fa è arrivata la notizia che giunge dal Frontex. Nel 2015 dobbiamo essere preparati ad affrontare una situazione molto difficile, più difficile dello scorso anno. A seconda delle fonti ci viene segnalato che ci sono tra i 500.000 ad 1 milione di migranti pronti a partire dalla Libia, così il Frontex poco fa in un'intervista all'agenzia ANSA. Oggi è la giornata dei giusti, proclamata nel 2012 dal Parlamento europeo per commemorare coloro che si sono opposti ai crimini contro l'umanità e i totalitarismi. Enza Loddo ha intervistato il presidente di Garibo Foresta dei Giusti, Gabriele Nissim. La giornata europea dei giusti è una cosa molto particolare. Prima di tutto unifica tutte le memorie d'Europa, no? Unifica la memoria del totalitarismo sovietico, la memoria della Shoah, unifica la memoria del genocidio armeno, unifica, come dire, delle memorie che spesso sono contrapposte. Però forse la cosa ancora più importante è che invece di ricordare il male, noi ricordiamo il bene, cioè ricordiamo le persone che si sono assunte una responsabilità. Questo significa in fondo dire che se oggi comunque noi viviamo in un'Europa pacifica, in un'Europa che pur con tutti i suoi problemi comunque è un punto di dialogo, di incontro, è quasi di pace, questo lo dobbiamo a questi uomini giusti che hanno, come dire, rappresentato secondo me le virtù dell'Europa. Vi saluta qui Daniele Biacchessi per Europa 24. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.